Na unale nami, yo unale nami. Ma unami yami super funny nale nami. Un gami nami, yo sunale karki. Mulon dumpit lumpit parhat mumpit nami nami. Oh yeah, nale nale nale nale nale nale nami. Nale nale nale nale nale nami. Nale nami, do nale nami, mau nami yami super funny nale nami, on gami nami, yo sun nale kaki, mulo do bit lu bit parhat mu bit nami nami, oh yeah. Nale nale nale nale nale nami. Satu tum paras prendi, tum sirum beli. Tiga omita, tiga boys may terutta. Matun tum paras prendi, tu es ola puber yengi. Malma get ready, tum tal tame tulla. Nao nale nami, yo nale nami. Mao nami, yami super funny nale nami. On gami nami, yo su nale kaki. Oh yeah, oh oh oh oh, super nalle mennä nyt lavalle pomppimaan. Oh oh oh oh, jelly nalle, nyt hommat haltuun otetaan. Mä oon nalle nami, jo oon nalle nami. Mä oon nami jami, super fani nalle nami. Oon gami nami, jo sun nalle.